Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È arrivata pochi istanti fa la conferma da Bruxelles. Si sta pensando ad un'operazione militare contro i trafficanti di esseri umani. Intanto arrivano notizie dalla procura di Palermo. Erano 850 a bordo del barcone naufragato al largo della Libia. I PM ipotizzano la collisione con il mercantile arrivato per salvarli. Sul tesoretto le raccomandazioni di Banca Italia, lo si usi per consolidare i conti. Oggi Consiglio dei Ministri sul fisco, verso il via alla fattura elettronica tra privati. Legge elettorale, resta lo scontro nel PD e si moltiplica il caos in commissione. Anche Forza Italia, SEL e il Movimento 5 Stelle usciranno dall'aula. 16 casi di meningite dall'inizio dell'anno e 4 vittime. La Toscana varò un maxi piano di vaccinazioni. Attacco dei direttori d'albergo romani, città sporca, i trasporti non funzionano, i turisti scappano dalla capitale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it durante la diretta, il numero di sms il 349-238-6666. Riprendiamo dunque le fila del tema immigrazione, del quale ha parlato, come avete sentito, anche Gianluca Nicoletti nella puntata di oggi di Melo, che ripartiamo dalle ultime notizie che arrivano da Bruxelles, notizie che sembrano una conferma delle indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Così, Simone, in Europa davvero qualcosa sembra finalmente muoversi. Si guarda con speranza a questo vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo di giovedì, che dovrebbe formalmente adottare il progetto esaminato ieri dai ministri degli interni e degli esteri, le 10 proposte elaborate dalla Commissione europea. Ma soprattutto si parla insistentemente, adesso è arrivata appunto una conferma, che si parla appunto di un'operazione militare per colpire i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Così ha detto Natascia Bertò, uno dei portavoce della Commissione europea, dunque un'azione incisiva. Si è parlato in questi giorni anche dell'azione di raid aerei, per i quali sarebbe comunque necessario l'intervento dell'ONU. Tra le ipotesi sul tavolo anche missioni di polizia da inviare nella parte settentrionale della Libia a controllo dei porti, mentre sul fronte dell'accoglienza partirebbe un progetto pilota di condivisione del carico dei profughi, che potrebbero essere dunque redistribuiti tra vari paesi europei per quote, inizialmente su base volontaria. Insomma, l'Unione Europea è chiamata finalmente alla prova dei fatti. Questo è il momento della decisione, della solidarietà e dell'unità europea, ha detto il portavoce oggi, poco fa, della Commissione, Margherita Scinna. Se dunque l'Italia si giocherà giovedì la sua partita più importante per ottenere finalmente impegni concreti da Bruxelles. E grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Intanto torniamo sulla cronaca con i dettagli che emergono dal naufragio nel quale sarebbero morte almeno 700 persone. Sul barcone ce n'erano molte di più, ha fatto emergere oggi la procura di Palermo. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Prima dei dettagli che stanno emergendo dalla procura di Catania, partiamo però dalle notizie di soccorsi che sono andati a buon fine. 446 migranti sono stati soccorsi appunto all'alba di oggi a bordo di un peschereccio a circa 80 miglia a sud-est delle coste calabresi. Tra loro 59 bambini, 95 donne, sono stati tutti trasferiti su una unità della Marina Militare. Nella giornata di ieri sono stati tratti in salvo 638 migranti in 6 differenti operazioni, perché queste persone si trovavano a bordo di 6 diversi gommoni in acque libiche. In merito al naufragio invece avvenuto nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste libiche, secondo la procura di Catania, che ha aperto un fascicolo, l'inabissamento del barcone sarebbe dovuto a 2 cause: lo spostamento dei migranti sull'imbarcazione, che era sovraffollata, e l'errata manovra dello scafista, che l'ha portata a collidere con il mercantile King Jacobs, che era arrivato proprio per soccorrerli. Secondo quanto hanno riferito i superstiti, lo scafista, che era al comando del barcone, avrebbe provocato la collisione nel tentativo di nascondersi. Si ipotizza però anche che invece l'intento fosse proprio quello di avvicinare il mercantile per ricevere aiuto. I 2 presunti scafisti, riconosciuti dagli altri superstiti, sono accusati di omicidio colposo plurimo, naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 2, che sono un tunisino e un siriano, sono arrivati a Catania nella notte assieme agli altri sopravvissuti, sono stati fermati e arrestati. Sul numero delle vittime non è ancora possibile essere del tutto precisi, incrociando le informazioni rese dai sopravvissuti e il report del mercantile portoghese, la procura di Catania stima approssimativamente che il numero dei migranti a bordo fosse di circa 850 persone. Grazie Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Nella maxi operazione di ieri contro il traffico di esseri umani, questa sì, messa in piedi dalla procura di Palermo, gli uomini arrestati ne gestivano una parte direttamente dal centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, dove noi eravamo stati nei mesi scorsi. Sentiamo. Non è difficile capire perché l'eritreo Asgedom Jermai, figura centrale dell'inchiesta sul traffico di esseri umani della Procura di Palermo, avesse il suo ufficio, per così dire, al CARA di Mineo, il centro richiedenti asilo in provincia di Catania, già fulcro dell'inchiesta Mafia Capitale. Che il CARA potesse essere, fra le molte altre cose, anche il centro di reclutamento e smistamento di migranti, era facile intuirlo visitandolo. Noi lo abbiamo fatto 3 mesi fa. Il CARA è una cittadella nella città. Ogni comunità ha i suoi capi interni che gestiscono lavoro nero, prostituzione e spaccio. A fianco a Lamin, che si chiedeva perché lo trattenessero per oltre un anno, c'era Mohamed, che si scambiava calorosi saluti con il direttore, assicurandogli la tranquillità dell'area che lui controllava. Oltre a Ismail, che gestiva un vero negozio di t-shirt e scarpe trafugate chissà da dove, c'era Medà, che all'alba veniva caricato da un siciliano per raccogliere in nero le arance. Tutto questo, e adesso sappiamo anche l'organizzazione del mercato di schiavi, avveniva sotto gli occhi della gestione tutta italiana. 400 dipendenti, un paese intero assunto. E i migranti che andavano e venivano. D'altronde non sono mica in carcere, ci hanno fatto notare il direttore e la presidente del consorzio Calatino Terre d'Accoglienza, tutta presa a usare i fondi pubblici per organizzare sagre e il presepe vivente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su tutto questo torneremo più avanti, vi faremo sentire tra l'altro un'intervista realizzata da Livia Zancaner con un responsabile dell'Interpol per cercare di capire come si stiano muovendo le polizie europee internazionali proprio per combattere il traffico di esseri umani. Intanto passiamo alle altre notizie, iniziando sicuramente dal Consiglio dei Ministri di oggi, chiamato a varare alcuni importanti provvedimenti fiscali, tutto questo mentre proseguono le audizioni sulla manovra alla Camera. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. In primo piano le audizioni sul documento di economia e finanza, con l'intervento tra gli altri questa mattina dei rappresentanti della Banca d'Italia. Focus da parte di Via Nazionale sul cosiddetto tesoretto, definito modesto e dovuto interamente alla minore spesa per interessi. Da qui l'invito da Banca Italia al governo perché queste risorse siano utilizzate per accelerare il riequilibrio della finanza pubblica, dando così maggiore certezza al percorso intrapreso. Bene quindi il governo sulle riforme secondo l'Istituto Centrale. Le priorità e gli ambiti di azione individuati dall'esecutivo appaiono largamente condivisibili. Quanto alla riforma del lavoro, al Jobs Act, è opportuno che le misure indicate nella legge delega e illustrate nel piano nazionale di riforma siano però attuate con sollecitudine. Perplessità sul tesoretto anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, per il quale sembra prematuro considerare acquisite queste risorse. Altro capitolo, Simone, il fisco. È iniziato da poco il Consiglio dei Ministri chiamato a varare i decreti attuativi della delega fiscale. È nutrito il pacchetto di novità. La più popolare, la fattura elettronica, che dal 2017 sarà estesa volontariamente anche ai privati, rendendo facoltativo lo scontrino fiscale. Ancora nulla invece sul fronte del catasto e sulle sanzioni penali. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E anche sul Consiglio dei Ministri di oggi, sui provvedimenti previsti, torneremo tra poco con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Intanto però restiamo in Parlamento e andiamo allo scontro sull'Italicum, sulla legge elettorale che si fa sempre più acceso. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. L'Aventino ha annunciato, è ormai un dato di fatto, in Commissione Affari Costituzionali, dopo la sostituzione dei deputati democratici dissidenti, tra i quali spicca l'ex segretario Pierluigi Bersani, anche Forza Italia abbandona i lavori. Prima l'aveva fatto il Movimento 5 Stelle, poi Scelta Civica, ad annunciare la defezione degli ex alleati del Patto del Nazareno, il capogruppo azzurro Renato Brunetta Montecitorio, che esorta il PD ad approvarsi da solo la riforma. E anche Selle è pronta ad abbandonare i lavori. Perché, spiega Arturo Scotto, non partecipiamo a farse. La notizia arriva quindi il giorno dopo la sostituzione con i deputati deputati renziani per approvare la legge in via definitiva senza passare di nuovo dal Senato, dove i numeri sono più esigui. La battaglia però si sposta in aula e sono già stati ammessi una novantina di emendamenti. A spiegare le ragioni della maggioranza PD arriva Andrea Marcucci. L'obiettivo della minoranza Dem è non fare nulla e le tensioni sono in parte dovute alle elezioni regionali. L'Italicum è una buona legge. E da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Dunque, come annunciato, torniamo a parlare del Consiglio dei Ministri di oggi, che si è riunito alle 12:20, quindi poco meno di un'ora fa, ed è chiamato a varare dei provvedimenti in materia di fisco. Il punto su questi provvedimenti con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che cosa si prevede che approvi il Consiglio dei Ministri? Sì, sostanzialmente oggi il Consiglio dei Ministri sta approvando, diciamo, le parti della delega fiscale, quindi della riforma del fisco, che ci ricordiamo è stata approvata come legge delega più di un anno fa, le parti, diciamo così, che non determinano problemi da un punto di vista elettorale, ma solo le notizie positive, perché viene esaminato il decreto sull'abuso del diritto, ma non c'è la norma per quel che riguarda la cosiddetta norma del 3%, il salva Berlusconi, la cui polemica scoppiò nei giorni intorno a Natale. Ci ricordiamo che Renzi convocò un Consiglio dei Ministri la vigilia di Natale per fare il provvedimento sulla cosiddetta certezza del diritto, sulla riforma dei reati fiscali. La parte reati viene rimandata a più tardi. Viene esaminato poi il decreto che avvia la fattura elettronica per i privati, quindi nei rapporti tra privati, con una serie di semplificazioni per chi aderirà alla fattura elettronica, che sarà opzionale, sarà una scelta per i privati, ma i privati che aderiranno si vedranno eliminare tutta una serie di controlli, per esempio lo spesometro, cioè tutti quegli adempimenti che rovinano un po' la vita alle imprese, soprattutto alle piccole imprese. Tra le cose invece rinviate c'è la riforma del catasto, quella famosa per cui dovrebbero rivedere tutti i valori catastali su cui paghiamo le tasse sulle nostre case. Tutto questo verrà fatto dopo le elezioni del 31 maggio, che vedono al voto 7 regioni e 1090 comuni. Quindi un po' di buone notizie di avvio del cantiere della riforma fiscale, perché poi questi provvedimenti devono passare in Parlamento. I temi spinosi invece a prima dell'estate. Grazie Gianni Trovati del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire, poi vedremo che cosa emergerà effettivamente dal Consiglio. Le sanzioni occidentali contro la Russia per la crisi ucraina possono costare quest'anno a Mosca fino a 75 miliardi di euro, che corrispondono al 4,8% del prodotto interno lordo. Lo ha detto il premier russo Dmitry Medvedev in un intervento alla Duma, precisando che l'anno scorso le sanzioni hanno causato a Mosca un danno di 25 miliardi, che è pari all'1,5% del PIL. Restiamo all'estero. Nella prima sentenza a suo carico, il deposto presidente egiziano Mohamed Morsi è stato condannato dalla Corte d'Assise del Cairo a 20 anni di carcere in un processo per la morte di manifestanti che protestavano a dicembre 2012 contro un suo decreto. L'analisi di Alberto Negri. La parabola dell'ex presidente egiziano Mohamed Morsi induce a qualche riflessione. Fino al colpo di Stato del luglio 2013 da parte del generale Abdel Fattah al-Sisi, il leader dei Fratelli Musulmani era l'uomo più potente dell'Egitto e godeva anche di un consistente appoggio popolare. Adesso è stato condannato a 20 anni di carcere per l'uccisione nel 2012 di alcuni manifestanti ed è sotto processo anche per cospirazione contro lo Stato e spionaggio, accuse per cui potrebbe subire una condanna a morte, come è già accaduto alla guida religiosa dei Fratelli Musulmani Mohamed Badieh. Ma che fine hanno fatto i Fratelli Musulmani, che dopo la caduta di Mubarak avevano vinto elezioni politiche presidenziali? L'organizzazione fuori legge come gruppo terroristico ed è entrata in clandestinità. In realtà i Fratelli Musulmani ci sono ancora, ma sottoposti alla dura repressione del generale al-Sisi. Oggi tutti sembrano contenti del regime del nuovo uomo forte dell'Egitto. La Russia e la Francia gli vendono armi, i sauditi inviano finanziamenti da decine di miliardi di dollari e il Cairo sostiene il generale Haftar in Libia. Ma se un giorno l'Egitto dovesse riesplodere non dovremmo troppo meravigliarci. I problemi ci sono tutti ancora, ma nascosti sotto il tappeto. Il Gran Mufti turco Mehmet Gormez ha criticato Papa Francesco per le parole sul genocidio armeno, che ha definito immorali, lo riferisce la stampa di Ankara. Gormez è la principale autorità religiosa musulmana sunnita del paese ed è anche il capo della direzione affari religiosi di Anet del governo turco. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di calcio, innanzitutto con una notizia di pura cronaca, perché è ufficiale: Zdeněk Zeman ha lasciato il Cagliari, il tecnico boemo ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla società rossoblu. Alla base della decisione c'è la rottura del rapporto con la squadra, alla luce anche degli ultimi scarsi risultati in campionato. E poi c'è una questione che riguarda il Milan, in parte ve l'abbiamo accennato ieri: l'arrivo di un imprenditore dell'Estremo Oriente, esattamente come nel caso dell'Inter, pronto ad acquistare la squadra. Come per l'Expo, è una corsa contro il tempo. Entro il 30 aprile si saprà se il Milan passa nelle mani thailandesi di Mr. B oppure se l'accordo salta, lasciando spazio alla cordata cinese di Richard Lee. Il Milan è il Milan, un brand di grande fascino, come quelle stelle che, spente da migliaia di anni, brillano ancora di luce riflessa. Berlusconi, più lucido nel calcio che in politica, ha fatto partire un'asta che, come tutte le aste, vola verso l'alto. Mr. B, il thailandese, ha messo sul piatto circa 300 milioni per acquistare una prima quota e poi puntare al bersaglio grosso arrivando al miliardo, la cifra, debiti compresi, fissata dalla proprietà. Ma se la trattativa sfuma, i cinesi sono già pronti ad acchiapparsi il 75% delle quote rossonere, con una residuale quota di minoranza per la famiglia Berlusconi. E intanto il Milan si aggrappa ai ricordi, a Sacchi, ai tre olandesi, a Capello, ad Ancelotti e Sceva, tutti ritratti di un vecchio castello sul quale crescono crepe e ragnatele. Il futuro è da scrivere. Forse sarà un futuro bellissimo e globalizzato, ma al momento si vedono solo le macerie di un tristissimo presente. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco parleremo dei casi di meningite che hanno spinto la regione toscana a varare un maxi piano di vaccinazione, poi dell'allarme lanciato dagli direttori di albergo di Roma. Hanno detto: la città è in una situazione imbarazzante, al Giubileo non siamo pronti, ma prima il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. L'Unione Europea parla di un'operazione militare per colpire i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Intanto si apprende che erano 850 a bordo del barcone naufragato al largo della Libia. Sulla legge elettorale sarà letteralmente caos in commissione. Forza Italia, SEL e Movimento 5 Stelle usciranno dall'aula, mentre resta aperto lo scontro all'interno del Partito Democratico. Tesoretto, cosiddetto tesoretto, le raccomandazioni di Banca Italia, lo si usi per consolidare i conti. Oggi Consiglio dei Ministri sul fisco, verso il via libera alla fattura elettronica tra privati. 16 casi di meningite dall'inizio dell'anno e 4 vittime. La Toscana vara un maxi piano di vaccinazioni. Di questo parleremo tra un attimo, ma prima saluto Roberto Necci, presidente dell'ADA Lazio, che è un'associazione che raccoglie i direttori di albergo. Buongiorno Necci e benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri telespettatori. Avete mandato radioascoltatori, comunque sì, no, capisco che possa capitare un lapsus. Senta, avete mandato una lettera al sindaco Marino dicendo: questa città, Roma, è in una condizione imbarazzante, al Giubileo non siamo pronti. Sì, noi abbiamo mandato una lettera all'amministrazione comunale per sensibilizzare comunque un intervento in vista dell'evento giubilare, un evento comunque eccezionale al quale l'industria turistica deve necessariamente agganciare la sua ripresa. Purtroppo l'industria turistica è strettamente connessa alla base dell'offerta turistica, il sistema infrastrutturale delle città, quindi il sistema dei trasporti, il sistema dell'organizzazione, il sistema della sicurezza, del decoro urbano, e quindi noi, senza nessuna velleità di tipo conflittuale verso questa amministrazione, però insomma sollecitavamo un intervento affinché a questo appuntamento eccezionale ci ritrovi effettivamente pronti a livello cittadino. Senta Necci, avete anche detto, tra le altre cose, forse è stato un po' forzato dai giornali, però insomma, i turisti scappano. Voi avete un polso effettivo della situazione, perché facendo i direttori d'albergo, anche di alberghi prestigiosi, avete un'idea, avete un contatto diretto con i clienti. Che cosa vi dicono, che cosa vi raccontano? Scappano davvero? Allora, il turismo romano tiene per ciò che riguarda i numeri delle presenze, ma non tiene per ciò che riguarda un tecnicismo che noi chiamiamo ricavo medio, cioè sempre più il Roma viene vista agli occhi di un certo tipo di turismo come una città a buon mercato, perché la componente alberghiera, che io rappresento in quanto associazione dell'Ada Lazio, è solo una parte dell'offerta turistica. L'offerta turistica è qualcosa di più vasto, di qualcosa di più ampio, e quindi proprio per un sistema di infrastruttura, di decoro, di non perfetta organizzazione della città, Roma non riesce ad agganciare, non riesce a intercettare quei flussi di turismo che potrebbero spendere, diciamo, di più, e quindi garantire una ripresa, una vigorosa ripresa alle aziende, ma in generale all'economia. Quindi Roma tiene da un punto di vista numerico, vediamo tantissimi. Cioè, come dire, a Roma non ci si può non venire, però altra cosa è essere soddisfatti di come Roma ci ha trattato, per così dire. Beh, Roma ci sorprende, nel senso, a volte noi ci rendiamo conto, parlando giornalmente con tantissimi turisti, che Roma per certi aspetti sorprende in negativo. Cioè c'è un effettivo contrasto, magari anche fra la qualità dell'offerta alberghiera, di alcuni alberghi di lusso, insomma, che lei ha citato, e poi un degrado urbano che magari vicino ad un albergo ubicato a Via Veneto fa trovare dei cassonetti della spazzatura assolutamente stracolmi. Quindi c'è agli occhi del turista questo contrasto forte. Poi con alcune, diciamo, eccezionalità, io mi trovo quello del Savoy vicino Via Veneto, nei pressi di Via Veneto, basta che qualcuno di voi si fa una passeggiata, non so, al Caffè de Paris, un'icona del turismo di questa città, che insomma è allo stato completo di abbandono. Quello che noi poi enfatizziamo, sì, è il fatto che oggi con i dispositivi mobili, con gli smartphone, con la possibilità di mandare online qualunque cosa, i nostri limiti, le nostre pecche vengono comunque amplificate. Ovviamente, vengono allo scoperto. La ringrazio, Roberto Necci, presidente dell'Associazione Dirigenti Albergo del Lazio, direttore di Albergo del Lazio. Massimo ci scrive: la città è degradata ovunque. Io me ne andai 20 anni fa e a ragion veduta feci bene. Rivederla oggi mi fa disperare. Non vi preoccupate, che sul tema di Roma ci torneremo sicuramente, perché sarà un periodo che, tra Expo, che porterà turisti anche a Roma, e Giubileo, la città subirà sicuramente, come dire, un assalto di turisti, e quindi questo sarà un tema sul quale tornare. Luigi Marroni, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. 16 casi di meningite all'inizio dell'anno, se ho capito bene, di cui 4 mortali. Avete varato un maxi piano di vaccinazioni nella Regione? Sì, più che sì, esatto. Dunque, noi in questo caso, questi casi di per sé, benché ancora statisticamente non siano abnormi, succede che sono avvenuti con una certa frequenza, concentrati soprattutto i casi mortali, concentrati in poco più di un mese. Questo ci ha fatto fare un'indagine ulteriore, iniziata da tempo. È un ceppo particolarmente aggressivo, per cui abbiamo deciso, per proteggere tutta la popolazione, di fare, noi già vacciniamo dal 2006 tutti i bambini, noi faremo ora anche un richiamo della vaccinazione esteso fino all'età che va dai 10 fino all'età di 20 anni, quindi così copriremo tutti i cittadini fino a 20 anni in maniera stabile. Questo darà la vera protezione contro la meningite. In più, stiamo ora facendo la mappatura delle zone che hanno frequentato le persone ammalate, e faremo una vaccinazione fino a 45 anni, tutto gratuito naturalmente, per le persone che vivono un po' nella fascia dove le persone quante sono? Cioè, avete già un'idea di massima? Sì, dunque, le vaccinazioni fino ai 20 anni sono circa 300.000 persone. Stiamo ora valutando le altre, si parla di molte decine, di molte migliaia di che decine di migliaia di persone ulteriori. Decine di migliaia di persone ulteriori. La ringrazio, grazie a Luigi Marroni, assessore al diritto alla salute della regione Toscana. Noi torniamo e restiamo, anzi, sulla cronaca con un'importante operazione antimafia avvenuta a Bari. Per ogni slot machine chiedevano 100 euro al mese. Quello delle macchinette era uno dei business su cui aveva costruito il proprio impero il clan barese di Cosola. Oltre 60 gli arresti eseguiti in un'operazione dei carabinieri scattata nella notte, che ha portato anche al sequestro di conti correnti, società e beni immobili per un valore di 10 milioni di euro. Gli investigatori hanno documentato, oltre alla capillare attività di spaccio di droga, tutto il giro di estorsioni alle imprese edili, tra i fermati anche un imprenditore che si è visto sequestrare l'azienda. Il tenente colonnello Fabio Ottaviani è il comandante del reparto operativo di Bari. Quello che ci ha stupiti e che dimostra un salto di qualità di questa organizzazione, fortunatamente stroncato, è il controllo del mercato del cemento nel settore edile, per cui il clan disponeva di una società che produceva cemento, che è stata poi sequestrata oggi, il titolare arrestato, che imponeva il cemento ai costruttori edili a prezzi concorrenziali, ma poi abbiamo scoperto che questi prezzi concorrenziali venivano realizzati fornendo un cemento scadente, e questo è un dato sicuramente preoccupante. In carcere sono finite anche alcune donne che gestivano la contabilità del clan. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è la borsa e poi dopo ci ritroviamo per sentire l'intervista che ha realizzato la nostra Livia Zancaner con un responsabile dell'Interpol italiano che ci racconta come si sta cercando di contrastare il traffico di esseri umani. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La conferma è arrivata questa mattina, si sta pensando ad un'operazione militare europea per colpire i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, a confermarlo una portavoce della Commissione europea. Intanto i PM di Catania ipotizzano in merito al naufragio di sabato notte la collisione con il mercantile arrivato per salvare i migranti. Sul tesoretto questa mattina sono arrivate le raccomandazioni della Banca d'Italia nell'ambito delle audizioni sul documento di economia e finanza. Lo si usi per consolidare i conti. È riunito il Consiglio dei Ministri in questi minuti sul fisco, si va verso un primo via libera alla fattura elettronica tra privati che dovrebbe arrivare a partire dal 2017. Sulla legge elettorale resta lo scontro non solo all'interno del Partito Democratico ma anche con le opposizioni. Forza Italia, SEL e Movimento 5 Stelle hanno deciso di uscire dall'aula. Pochi istanti fa la replica del vice segretario del PD Guerini, che dice stanno facendo strumentalizzazioni. Sono stati 16 casi di meningite dall'inizio dell'anno e 4 le vittime. La Toscana ha varato un maxi piano di vaccinazioni che coinvolgerà 300.000 persone. L'attacco ai direttori d'albergo romani, l'avete sentito poco fa, la città è sporca, i trasporti non funzionano, i turisti scappano dalla capitale e lanciano un allarme per il Giubileo. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ha ragione l'ascoltatore che mi richiama all'ordine, abbiamo dimenticato i cambi, ci vuole un dollaro e 0,7 per comprare un euro. Andiamo a Cagliari dove si svolge la prima conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di polizia. L'obiettivo è aumentare il grado di conoscenza degli strumenti per contrastare i principali fenomeni criminali, tra cui la tratta di esseri umani, della quale stiamo parlando diffusamente in queste ore. Ci saranno poi incontri in tutti i capoluoghi nazionali. Ci spiega tutto nell'intervista di Livia Zancaner Filippo Di Spensa, questore di Cagliari e membro del comitato esecutivo Interpol per l'Europa, col quale Livia Zancaner ha giustamente parlato anche proprio di trafficanti di esseri umani e di come si organizzano le polizie per contrastarli. Interpol ha delle potenzialità straordinarie nello scambio di informazioni per contrastare tutte le forme di crimine. Naturalmente oggi è fondamentale il contrasto alla tratta degli esseri umani. La finalità di questa conferenza regionale è diffondere questi meccanismi di cooperazione, di scambio di informazioni, per informazioni chiaramente sensibili, utili per la cattura della latitanti, contrastare il narcotraffico, contrastare i foreign fighters. E si parla anche di trafficanti di esseri umani, che è un po' il tema di questi giorni. Uno degli aspetti fondamentali digitali di Interpol e la lotta ai trafficanti di esseri umani. Ci sono progetti molto importanti a livello mondiale e progetti regionali, anche l'area del Mediterraneo è oggetto di un progetto ad hoc da parte di Interpol per lo scambio di informazioni, per addivenire alle loro identificazioni e alla loro cattura. E di che progetto si tratta? Come state affrontandomi il problema in questi giorni? A livello nazionale tutte le forze di polizia, la polizia di Stato in particolare con la magistratura, dalla Sicilia, anche qui in Sardegna ne abbiamo arrestati due. E a livello di Interpol prima mi parlava di un progetto, di un piano? Interpol ha diversi progetti per il contrasto alla tratta di esseri umani che coinvolge a livello globale tutti i paesi membri che sono 190, poi a livello regionale i paesi coinvolti dell'area del Mediterraneo ad esempio, perché la banca dati Interpol ha delle informazioni fondamentali, importanti chiaramente per la cattura e la ricerca di questi soggetti che sono dediti al traffico di esseri umani, sia in Libia, sia negli altri paesi, in Siria, in Somalia, in Egitto. Interpol in questo momento ha 17 banche dati, dalla ricerca dei latitanti, alla diffusione delle notizie sulle persone pericolose, ai documenti contraffatti o rubati che sono fondamentali per tutte le forme di crimine, per chi vuole attraversare le frontiere, per la pedopornografia, adesso se ne istituirà quella nuova sui beni sequestrati e confiscati, sulle persone scomparse. In questi giorni ci sono state riunioni ad hoc, magari anche con qualche Stato membro, con l'Unione Europea? Le riunioni si susseguono continuamente, poi a livello politico non compete a noi chiaramente. Che difficoltà operative ci sono con i trafficanti, cioè per riconoscerli, per arrestarli? Le difficoltà sono quelle di ogni investigazione, di ogni indagine. Qui è chiaramente data la situazione grave che c'è in Libia, ci sono difficoltà in più, ma come vede siamo riusciti lo stesso a identificarli. Le forze di polizia lavorano in coordinazione col coordinamento della magistratura. Secondo lei come si può affrontare il problema? Ma il problema del contrasto si affronta già in maniera efficace, con la collaborazione delle altre forze di polizia. Interpol Tripoli funziona ancora, nonostante tutte le difficoltà. Abbiamo voluto tenere aperti i canali di comunicazione con l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tripoli e i flussi di informazione funzionano ancora. Le forze di polizia a livello universale parlano un linguaggio unico, perché la finalità è unica, quella di arrestare i criminali. Senta, il tema degli scafisti si colloca anche all'interno della lotta contro il terrorismo, è corretto? Con la tratta degli esseri umani si può finanziare il terrorismo, ma gli scafisti non finanziano il terrorismo. Gli scafisti sono a volte dei criminali che profittano della disperazione di questa gente per arricchirsi. A volte gli scafisti sono migranti che non pagano il viaggio, 1.500, 3.000 dollari e guidano i gommoni o i natanti. Secondo lei quale può essere una soluzione? Cioè al momento che cosa si può fare di più? A livello operativo l'Italia e i paesi esposti nel Mediterraneo stanno facendo tantissimo. Poi chiaramente c'è un livello politico che deve intervenire. Sono stati assegnati ieri i premi Pulitzer. The gold medal for public service goes to the Post and Courier of Charleston, South Carolina. Per la prima volta dopo molti anni, il riconoscimento più prestigioso del massimo premio giornalistico, il Pulitzer, è andato ad un piccolo quotidiano locale, il Post and Courier di Charleston, in North Carolina. Con una redazione di 80 giornalisti e una distribuzione giornaliera di 85.000 copie, il Post and Courier si è aggiudicato la medaglia d'oro per il public service grazie ad una serie di articoli sulle donne vittime di violenza domestica dal titolo Finché morte non ci separi. Secondo la giuria del Pulitzer, giunto ormai alla 99esima edizione, gli articoli del Post and Courier hanno chiarito perché il South Carolina è tra gli stati con il più alto tasso di mortalità tra le donne e affrontato la questione di cosa è possibile fare. Le corazzate dell'informazione hanno comunque avuto i loro riconoscimenti. 3 sono andati al New York Times per il giornalismo internazionale, per la fotografia e, assieme al Wall Street Journal, per il giornalismo d'inchiesta. L'agenzia Bloomberg ha conquistato il suo primo Pulitzer grazie agli articoli legati all'elusione fiscale, mentre un altro dei premi cruciali, quello per il Breaking News Reporting, è andato ancora ad un piccolo giornale, il Seattle Times, per la sua copertura delle notizie su una valanga di fango avvenuta nello stato di Washington che ha causato la morte di 43 persone. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un paio di aggiornamenti prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Il primo arriva dal Consiglio dei Ministri, la riunione del governo di oggi, che era chiamata, come vi abbiamo raccontato nel corso della trasmissione, a varare una serie di provvedimenti sul fisco, tra cui un primo via libera alla fattura elettronica tra privati, che dovrebbe scattare nel 2017 ed essere volontaria, ma appunto oggi dovrebbe arrivare il primo via libera. Bene, il Consiglio dei Ministri è terminato, a breve naturalmente ci sarà la conferenza stampa e avremo tutti i dettagli. E l'altra è la storia di un'operazione appena arrivata dalla Gran Bretagna, dove due ragazzi britannici di fede musulmana, entrambi di 17 anni, sono stati fermati dalla polizia a Coventry perché sospettati di voler raggiungere la Siria per unirsi all'ISIS o a gruppi affini in attività terroristiche. La notizia è stata riferita dalla BBC, ma è stato anche precisato che il progetto era ancora in stato embrionale, senza minacce imminenti per i cittadini britannici. Andiamo a sentire il traffico.